tanto, va, un'oretta ha durato, va, un'oretta. Non vorrei più perché è normale che quello di Pasqua ci sia tutto il racconto, eccetera, eccetera, la Via Crucis, eccetera, eccetera. Sorella? Però non pensavo dovessero così, perché ormai è stata una bella chiesa. Vado non è musulmano. Yes, Allahu Akbar. O buddista, sì. No, ero figlio di un buddista. Era buddista. Lui è un mormone Antonio, già lo sa perché. Vabbè, un mormone già lo conoscevamo già, bene bene. Ah, sì, c'era maestrale che era mormone. E non mi ha mandato a casa. Non mi andiamo a casa. Io ho detto, guarda, non mi mandare perché non sono d'accordo su questo tipo di giorno, rispetto a tutti, però no, io ho la mia, mi sono trovato questo insegnamento e continuo a portare avanti. Poi figurati a me, ho fatto chirichetto, scout, sono stato sempre nell'ambiente ecclesiale, vado a diventare mormo. E niente, sono venuti e ci abbiamo mandato Salvatore, no? Mi ho detto, guardi, io a Salvatore gli ho detto che non mi interessava rispetto alle vostre opinioni, ha detto chiaramente, molto gentilmente, però gli ho fatto capire che, dice, ma nemmeno a parlarne. E gli ho detto, guardi, non c'ho tempo perché sto andando a lavorare, in effetti la poesia devo andare a lavorare. E poi ho telefonato, gli ho detto, Salvatore, non me ne mandare più perché se dovessi amico con me, mettiamo da parte quell'atto lì, parliamo di altro, però non mi manda lì, ma dice sono brave persone, ma non lo metto in dubbio, saranno brave persone, però ognuno si tiene la sua religione. Giusto, però ti ripeto, non è una religione tipo il testimone di Geova, sono cristiani come noi, applicano il Vecchio Testamento, no? Cioè l'Antico Testamento anziché il Nuovo Testamento, per cui è solo questione di opinione, va bene, dai, concludiamo di lì. No, io accorgo, a Salvatore gli avevo dato, abbiamo una specie di sala della società nostra, della squadra di calcio, che si era battezzata la moglie, che l'avevo data a disposizione tempo fa. Ma io c'ho il mio nipote mica guarda, va a fare inglese, adesso è convinto che questa religione sia, vabbè, sì, me l'ha spiegato che sono quasi, credo quasi tutte le cose che troviamo lui. No, oh, quasi, tutto quanto credono, cioè tutte le cose della Chiesa, perché solo la vedono decorare dei tempi antichi, diciamo, una cosa diversa, loro non possono bere né Coca-Cola, né alcolici, né birra, caffè, tutte le cose che possono, diciamo, un po' antica come tipo di credenza, dai, però non le critico, ognuno poi a casa sua. Lui con me non ne ha mai parlato, una volta solo mi ha detto che lui faceva parte di questa confederazione e basta, ma è finito lì il discorso, forse perché lo sapeva già in partenza, che era un discorso chiuso da parte mia. Va bene, dai, cambiamo discorso e argomento. Avanti, Claudio. Ma è praticamente quali sono quelli che non trombano? No, forse che si tromba nel gruppo a chi ne ha più di una dei mogli. Infatti, possono avere un po' di più. Ma gli altri la rotta di palle, però. Sono bigami. Come dici, tu? Va bene, ogni rottura di palle. Ma io dico, per certi cose non è brutto, lo sai? Avevo già, ce ne vuole sopportarne una di nude, ti imbigliassi in qua. È proprio malissimo, quando ti soffri di una ti imbigliassi. Sì, perché poi si coalizza e sei morto. Tu poi ti si consuma la ghigliottina, lei sa. Come va se te ne domanda nel gruppo e non ve la vai? Ma che tanto già di schicchi adesso, mi dico io, torno a giocare con computer. Cavallero, non è riuscito a cavallero tu? No. Ma Antonio, guarda, sei tu cavallero? Ma conosci? Di banana, Gianni Banana, come si chiama? No, oh, Luca, a parte gli scherzi, l'hai conosciuto? Certo, lo conosci, avete messo anche da via. Non l'ho più visto da parecchio, l'ha conosciuto per un sacco di anni da noi, lui e il fratello. È grippato. Come? Ah, grippato, cavallero. Grippato, no, Piero Caballero, ma stiamo parlando della stessa persona. Chi si dà? Di cognome chi si dà? No. Ah, stai dicendo un'altra persona. Infatti. A lui lo stesso lo chiamano Caballero, forse è un'altra persona che stai dicendo tu, però ho capito che stai dicendo del Monte sempre. Affermottami, Caballero regolarità carro si marce, e tu già Riccardo una volta me l'ha pensato un amico mio di fornitore, c'è il carburatore più grosso, la marmitta filo, qualche cassetta unica, poi ho fatto fare, perché non ha molto che va la marcia è corta, ho fatto fare un pezzo, che sentivano come se fosse il male in casa. L'epoca era la più bella moto, la moto più desiderata dei ragazzi. Chi ce l'aveva, il primo e forse uno dei pochissimi, era Vittorio Porcella, non so se avete conosciuto più di Porcella. Eh sì, lo sento nominare. Era la marcia un po' delle comache, ce l'aveva Walter, Walter Pinicco, non so se lo conosci. Ce l'aveva Walter e saltava proprio delle cornacchie, andava. E niente, era una bella moto, la teneva lucida, motore Sash, me lo ricordo ancora. Ma voi non sapete, voi che a capotto c'è quella moto che conoscevamo, ma... Attenzione Gianni, non confondiamo regolarità a casa con regolarità sulle marce, perché regolarità a casa non ce n'erano molte. La regolarità a casa c'aveva, l'altra c'aveva quella. Perché Marco Petro sta veramente lì, non ci siete mai andati a vederlo al campo delle cornacchie. Tony Cossello, quell'altro che gli hanno fatto la pista, come si chiama? Secchi, come si chiama? Autodromo Vece Giù. Non stai dicendo tutti. Oia. Ma perché tu avete conosciuto un motocross a Sassi, avete conosciuto un altro produttore, cioè con il motocross di Dragoni. Tra produttore del Sasso e motocross, dove c'era anche Marco, e c'era tutti, capito? E così, e così. C'era Stefano Spadon, Marco Cavalletti, chiaramente, Gianni Fiorotti, sì, non c'erano tutti Girea, Mario Corda, non c'erano tutti i Caballero della Girea. Sì, io mi ricordo anche dove lo facevano, lungo Barai. A Balai proprio c'era una specie di pista che avevano fatto loro. Mi ricordo anche dove saltavano, prima di avere quella pista che c'è nella strada di Stintino, lì c'era quella di Balai, non so se te la ricordi. E già me la ricordo, per quello sto dicendo, è vero, il motocross è nato a Porto Torres, con il motoclub dei Dragoni, dove il padre, signor Francesco, il padre di tutti, di Marco, oggi c'è Marco Secchi che corre ancora, era presidente del motoclub dei Dragoni, addirittura era vicepresidente regionale del motocross Sardegna, dove c'erano tutti i tempiesi che sono ancora molto bravi, De Zole, Azole, tutti quelli di Tempio che corrono. E a Porto Torres c'era una pista lì a Balai, poi è nata la vera pista provinciale, che è quella di Tamburra, nella strada di Stintino, che è proprio nel terreno di Marco Secchi, dove fanno le gare a livello regionale ancora oggi. Però prima si allenavano lì alla chiesetta, beh, lontano, dove c'era il discesone e il salto da fare poi all'ultima salita. Bei tempi, avevano tutti Robè, il Girera, tutti, Marco Cavalletti, Stefano Spadon, Marco Petretto, Marco Secchi aveva il Girera, Mario Corda aveva il Girera, avevano tutti il Girera, della il Caballero Girera. Caballero è fatto di moto comunque, non è Girera. No, Marco già me lo ricordo, già Mario Fino, tutta la gente che andavano di lì, ma poi hanno preso moto grosse loro, hanno iniziato Mario con quelle moto 50, però poi hanno iniziato a prendere le moto di un certo livello, la competizione. C'era anche Cavacito che correva con 250, Simonini. Esatto, Simonini, esatto. Guarda Marco, attualmente mi pare che sia già arrivato alla categoria 500, quindi fate il conto, una bestia quella moto, una bestia, c'è il KTM, prima va 250, adesso c'è il 500, quindi li conosco tutti. Vabbè, noi andavamo lì a barare, mentre loro facevano motocross, noi ci acciuppavamo le ragazze. Vero Antonio Brode, tu sì che hai perso i capelli, cazzo. Per il casco, perché io mentre tu acciuppavi le ragazze facevo motocross. Vero, altro così. No, io non sono mai stato bravo con le donne, assolutamente. Con gli uomini tu? Esatto, quello è tardetta. Però prima mi sono tirato ai motori. Cos'è Manu, che? Vabbè, ognuno c'ha le sue capacità e le sue predisposizioni. Io sono timido tuttora. Vabbè, la timidezza già passa, dai. Ma tanto che una che prende l'iniziativa già ti passa tutto. Io dico sempre, chi si roba si imbroga. Io ho avuto tre ragazze. No? Da te, avanti, non è campo da nessuno. Ti sposare mai, me. Perché hai già deciso l'ora? Sì, quasi. Non dire qua. Dovrebbe andare a cosa? La patente, se fanno l'esame. Ma tu vuoi andare già fatti i blog? No, ma scusate, no, cosa c'è? Come mi dispiacerebbe, perché mi piacerebbe sposarmi subito. Le cose ci tengono. Devono essere fatte subito nel terreno. Quindi ti metterà già anche da nuovo, sì. Tipo. Tu mi sembri tipo la matrimonio, detto chiaramente. Sei l'unico, mi dicendo. E quanti figli ti fai? Li compri già pronti tu? Chiusiamo un pochino questo baracchino. Sarà già andato. Questo è il mitico 50-24. Oggi li ho usati un po' tutti. Il DAC, vabbè, 9:40 era l'entusiasmo di provarlo, ma adesso so che va bene, l'ho spento un po'. Sto usando il baracchino con 3 canali base, Zodiac B50-24 con Turner più 3. Già va bene, tanto siamo in 3, cosa? 4 watt. Cazzo, fa sentire. E vi ascolto molto, ma molto meglio, sinceramente. Avete la modulazione molto più chiara, lì devo vedere domani se i filtri sono aperti, sono chiusi, va bene, mi hanno controllato niente, c'è attaccato il microfono e l'ho provato. Vieni avanti, Anto. 2-3, 1-2-3, prova, cambio. Sì, chiarissimo, la grande, perfetto. Segnale oltre il 9, va bene. Vai Gianni, doppio route. Ma quindi tu mi stai dicendo, stavo passando dalla colonia. Siccome hanno attaccato il 2 più 1 stamattina, andava tremendamente bene, sembrava in telefoniacra. Solo che mi ha bloccato Sandro, mi ha detto, non fare quello che c'è l'amplificatore e crei problemi. Non si sentiva nel rientro, nulla, proprio andava perfettamente, liscio. L'ho staccata subito, però sai che mi botte all'anno. Ma se mi stai dicendo che si può usare, la uso. Adesso non so se nell'analogico si può usare o già, però sappi che nel digitale, per esempio Giampaolo, quando aveva l'850, ha bruciato la scheda audio perché gli ha inserito delle colonnine preamplificate, quindi non, la scheda audio non ha sopportato questa preamplificazione della colonnina stessa e ha bruciato la scheda audio nel digitale. Nell'analogico non lo so se si può usare, ma comunque prima di farlo vi formate bene, perché io non sono sicuro se si può fare. Di solito sì, perché l'analogico, la scheda audio non è altro che un componente, cioè una scheda con tanti componenti, qualcosa in più, io non so esattamente se da uno all'altro si può fare. Oh, intervengo io un attimino, Gianni. Allora, ti spiego, quegli apparati che stiamo parlando adesso hanno un'uscita preamplificata, però l'uscita preamplificata a 200 mV, che l'utilizzo normale che fai ad attaccare a un amplificatore domestico, diciamo. Hai fai devi utilizzare la presa 13 pulì che c'è dietro, nel coso, la CC3 si chiama, accessorio 3, oppure 2, adesso devi avere quanti ne ha, adesso non ricordo, il 140 che ne ha. Mentre l'uscita mini jack, quello lì è un'uscita amplificata, se tu lo colleghi a uno di questi amplificatori surround, è troppo alto il livello, se per sbaglio sollevi troppo il volume, è come che sia un coso, un altoparlante dietro, è l'uscita con l'altoparlante. Per cui è un'uscita troppo alta, se tu la mandi all'ingresso di un qualsiasi amplificatore di qualunque genere lo bruci, perché un segnale troppo alto, cioè tensione troppo alta, per cui se tu devi utilizzare un segnale preamplificato, utilizza quella presa 13 pulli che c'è dietro. Infatti io con quella 13 pulli sto alimentando un analizzatore di spettro e un indicatore di livello, che è come che c'è un segnale di una piazza normale, mentre quella che con i mini jack, attenzione che fai danno, non tanto al baracchino perché non credo che ti faccia rientro, però ti bruci l'amplificatore, l'ingresso in dell'amplificatore. Ah, cappa. E vabbè, utilizzeremo una, diciamo, una cassa normale. Perché come ricezione sentivo benissimo, poi anche in trasmissione non mi va l'audio, quindi. Aspetta un attimo. E quindi capito, l'avevo utilizzata per quello. Mi sembrava qualcosa di bello, ma. Non lo so, vabbè dai, me ne metterò una normale, perché non so che siete molto meglio. No, non mettere roba perché tu utilizzi amplificatori esterni, assolutamente, se utilizzi quella presa lì fai danno, lascia perdere. Ti usi una cassetta piccolina, quelle canali per dire laterali o posteriori di quelli impianti sul rando, quelle piccoline che ci sono di tutte le misure, anche quelle tipo computer, però che ci abbiano l'uscita normale, cioè l'attacco normale come le casse normali domestiche, non utilizzare la parte dove c'è il connettore jack, che è quella necessità di amplificazione, lascia perdere, se no fai danno. Io no, meglio saperlo, io non lo sapevo, pensavo che non gli facesse niente, anche perché diciamo che è l'apparato che dà il segnale all'amplificatore. L'amplificatore va alle casse, quindi pensavo che non succedesse niente, ma meglio saperlo. Comunque grazie per il consiglio. Adesso ne prenderò una normale, se trovo una di quelle colonnine un po' grandi, me la metto perché mi è piaciuto molto l'audio, ma veramente è bello, anche al minimo si può sentire molto bene, mentre invece se lo faccio con l'apparecchio al minimo non è tanto per l'acquare, è un po' distorto, se qui lo alzi si sente bene, ma al minimo diventa appena distorto. E poi una cosa, Gianni, che è abbastanza importante, perché c'è uno stadio finale, un piccolo amplificatore, c'è in uscita di lì, l'impedenza all'uscita dalle casse rispetto agli 8 ohm, non mettere una 4 ohm perché sennò puoi far risalire lo stadio finale e col tempo si può danneggiare lo stadio finale di transistor. Meglio aumentare l'impedenza, metti la sua originale che è 8 ohm, per cui sei sicuro. Ti utilizzi quel mini jack, prendi due polarità, negativo e positivo, e lo attacchi rispetto alla polarità, perché sennò magari va in controfase dell'altro parlante e funziona benissimo. Io l'ho fatto con due apparecchi, una ne ho una, anzi ne vorrei mettere anche un'altra per l'altro baracchino che ho, perché è tutto totalmente diverso l'ascolto, ascoltando in corso, un altro parlante originale, tra l'altro quello del 440 non è così male, però se tu ascolti un baracchino con il suo altro parlantino da 3 cm o 4 cm rispetto a metterci un altro parlante esterno è un abisso già, completamente diverso, non sono diverso. Per quello molte volte quando ti danno dei controlli, magari ti stanno ascoltando con un altoparlante del baracchino e non è affidabile assolutamente, finché troveranno in cuffia una cosa, ma quando utilizzano un altoparlante esterno rispetto a quello originale è completamente migliore il suono. In cuffia vi ascolto perfettamente, se usano delle cuffie professionali Sennheiser vi ascolto perfettamente, però dovrebbe essere corretto un po' l'audio. Preferisco avere una bella colonnina, tu cos'hai usato come casse? Scusa, non ho capito cosa hai detto. Che cosa hai usato come colonnina? Ah, con un linea 2, una di linea, però è del 450, mi sembra quello che c'ho io. E poi c'ho l'altra della Sony, anzi ne ho due di queste Sony, vabbè l'altra la devo collegare. Attenzione a non collegarle insieme, non fare, che l'ho già provato io, se c'hai due apparati, per dire due baracchini e utilizzi la stessa collemina, anche se sembra che funzioni, stai molto attento che si può fare un rientro, quello è pericoloso, perché l'ho provato, non va bene, come accendi l'altro apparato ti abbassa il segnale e ti fa il rientro, cioè se le accendi tutti in contemporanea, non farlo mai, è meglio avere una colonnina per ogni apparato, perché sennò fai dei danni. Ma quella Sony dovrebbe essere su internet? No, già, ma se vai a quei negozi tipo Portobello, Porto Tutto, cos'è, al Catino delle Pucci ce n'è una marea, basta che utilizzi una cassettina piccola, guarda, ti scegli il modello che piace a te, anche quelle dei computer, importante che abbia l'ingresso, che utilizzi l'ingresso normale, non perché ci sono quelli che hanno necessità la parte amplificata, quelli impianti a doppi componenti, per dire che hanno il subwoofer e le cassette separate dei computer, bisogna stare attenti perché quello che c'è al jack ha necessità di un segnale preamplificato, se tu gli dai il segnale l'uscita diretta dove c'è quel jack, la metti diretta all'altoparlante, lo bruci, fai danno. Al limite elimini la parte amplificata dell'attacco e utilizzi direttamente l'altoparlante. Ma ce ne sono decine, costano una fesseria. Io ce l'avevo questo impianto sull'anno, ne avevo due, l'ho sostituito, ho cambiato le casse e mi sono rimaste queste qui. Ce le ho anche più grosse, ma metto quelle piccoline, perché di lì per ogni 5, cioè 5 più 1 di canali, questo è il canale posteriore o frontale, adesso mi ricordo, le ho sostituite, le ho messe più grandi e vanno benissimo, perché sono più o meno all'altezza delle 4,40, nere, davanti, si abbinano perfettamente, hanno un suono molto anche superiore a quello del corso, della colonnina esterna originale. Pagava, e poi le sono buone. Vabbè, comunque stavo leggendo adesso, è morta, si è suicidata Katy Perry, non so se la conosce. Chi? Una cantante famosa adesso che piace ai ragazzini, molto famosa, anche una bellissima donna. Katy Perry, che ha fatto musica tipo discoteca, tipo Rihanna, quel genere, non so se le ascolta, se le ragazzine le ascolta. Mi sembra di averla già sentita questa. Non ho capito un'altra. Malaya Kill, non ho capito, cazzo è. Che è uno dei miei idoli. No, questa è una cantante di quelle tipo Rihanna, come si chiama, Lady Gaga, fanno quel genere di musica commerciale, dai, però era una di quelle che andava per la mangiare, adesso mi c'è scritto qua, addio di Katy, e la notizia è arrivata poco fa, purtroppo Katy Perry si è suicidata. Già, ti conviene andare a Portobello, io li ho trovati lì, le casse di quelle che stai cercando tu, grassoni, le ho prese due piccoline. Vabbè, questo lo 50 con le 60, vabbè lo stesso. Sì, aspetta, voglio sentire, vederti, non senti. Vado a vedere, l'orazione è sempre, non so, processore non ce n'è, non c'è niente. Come va con l'orazione? Bella, a me piace tantissimo, bella, una delle migliori che c'hai. E questo è l'Ote 50. Questo è l'Ote 50 con l'MC 60. Bellissimo, perfetto, niente da dire. Diversa da quella di prima del 940 che non era male, questa è più fedele, più naturale. Ma l'amplificazione ce n'è, va bene. A Puglia, poi teoricamente sono levati un pochettino, ma da parte mia va bene. No, sembra bene così perché sono bravo, oggi non so che nessuno. Anche tu già mi ascolti bene. Io mi sembravi col processore inserito. Prova a mettere il processore a vedere cosa succede. Così è col processore inserito. Ah, radio. Da questo l'ho 50 veramente qua. Questo non lo sapevo che si poteva utilizzare così bene in AM anche questo. Già, anche qua aspetta che sta col processore. Anche qua c'è un lavoretto da fare che non ho fatto io perché continuo a ribadire il fatto che per fare l'eroe poi fai il coglione, allora è meglio non fare l'eroe. Questo l'ha fatto Massimiliano Archimede, l'ha allineato lui, l'ha fatto la modifica. può andare, dai. Non è che sia così malvagio. Non ho tutti quelli che io, tranne il 7004, tutti quelli della Peugeot li posso usare tranquillamente in 27. La Icom no, non c'è niente da fare, no. Non è fatto per la M. Io pensavo una delle migliori che ho ascoltato delle tue. Bisogna confrontarla con le altre, però la modulazione è bella pulita, non è di dove c'è esaltazione male di bassi, questa è pulita, veramente è una bella modulazione. Oh, un secondo solo che vado a mangiare una mortella, questa me non brucia lo stomaco allucinato. Mangio una mortella per tappare il buco. Siamo seduti per affogando stasera. Ma crode, non c'è crode. Tutto, porcetta, nero, gamberoni, pomodori ripieni, grandi bocciolini, veramente. Crode, come ti chiama San Lottire, crode. Questo è il gemello del tuo amico, il 1160, lo senti come va, ma anche tu non ci andiamo nei canali alti o bassi che non ci rompere palle nessuno. E lo regoliamo tutto così. Buongiorno, la sfida è questa che voglio portare avanti, cioè quella di andare, lo facciamo quest'estate, lo prometto, lo facciamo. Andiamo su a Ossi, anzi a Ossi, andiamo su a Ossi, andiamo sulla chiesetta e facciamo e tiriamo su un aereo stato con l'antenna. Tu stai scherzando, io l'ho già fatto quello, l'ho già fatto, ma nonna, io sono andato in macchina lì, mi sono portato la Grand Prix, non so se si è mai salito su a Santa Vittoria, c'è un murettino con un tubo attaccato vecchio, ci ho messo due fascette, ho messo la Grand Prix lì, cazzo che va con Olbia, Santiago Nombre, allucinato, ci avevo il 140 sul sedile della macchina. Siccome ho elio a buttatura, gonfiamo uno di quei palloni che è almeno mezzo metro cubo e tiriamo su un filo, come se fosse la canna pesca però tirata su. Bello viene, veramente bello. A proposito dell'elio, l'hai mai fatto la prova a metterti in bocca dell'elio e parlare? Sì, è sempre, ma devo te lo fare. Matrimonio, tu immaginati, mi avevano chiesto di gonfiare una specie di colonna verticale di 3 metri cubi con scritto viva gli sposi, cioè a metà matrimonio, a metà del ricevimento c'erano gli invitati che attaccati alle lettere, queste lettere giganti succhiandosi l'elio, che poi non è pericoloso, però devi stare attento, capito? Ma poi c'è un altro gas, stavo leggendo, adesso sono un libricino che c'ho io, questo qua addirittura ti fa venire da ridere, è un altro gas desilarante, non mi ricordo con cosa viene fatto, ma è un gas che si trova comunemente, ti pone a ridere, ti fa venire una cosa irrefrenabile. Lettere, aspettate un attimo, 2 secondi. Oh signore, vabbè, io interrompo, ci sono già un pochettino, anche io vado a mangiarmi qualcosa e poi mi colpo, dai, magari domani mattina... Se tanto non si va da nessuna parte perché col tempo che si prevede magari ci sentiamo domani mattina. Ok, di nuovo saluto Claudio, Gianni Doppio Rumo se c'è ancora, Antonio Eldrode e tutti gli amici eventuali qua sul canale 12. QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao Robe, al prossimo. Allora lasciamo tutto così. E usiamo anche questo, va bene, ciao, buonanotte, no, io domani lavoro, mi trattengo ancora un pochino, poi me ne vado a mangiare. Ciao, ciao a tutti, no. Vabbè, non c'è nessuno. Fabio, ora, attenzione, 27.105, ecco.